uguali e disuguali, uomini, piante, animali, pareti bue neon urlanti, strade sporche, mari distanti, unire l'ultimo e il primo, muovere la gamba e poi la mano, essere anche testa e pensiero, vivere la parte dello straniero, ridere forte, piangere anche, piegarsi con uomini e donne stanche, dare un cenno di saluto, anche senza aver mangiato né bevuto. Unire cattivi, santi e buoni, riconoscere il silenzio dentro i suoni, guardare bianco, grigio, nero, dare ascolto a ciò che è falso, a ciò che è vero, unire uguali e disuguali, uomini, piante, animali, ritrovare nelle persone la sete folle di altra immaginazione. Persone, la sete folle di altre immagini.